said you had a love to burn, that you would be my guide. I said I am slow. poc i amb els minuts anem amb el nostre programa. Això és Jazznàtics, el món del jazz, i aquest és el nostre programa número 18. Començat amb Bernard Oates amb When I Go to Sleep, i aquesta peça de fons és Girl du Nord amb Pablo's Blues. Amb dues peces són tretes de l'Smooth Jazz Recuperatoris amb el seu volum número 2. La proposta que ens arribarà de 15 minuts l'encatxalen Gino Paoli i Danilo Rea des d'Itàlia amb un àlbum publicat el 2012, que aquesta setmana serà el nostre disc especial de la setmana. Cançons fabuloses que ens arribaran, com per exemple La Gata. Des de l'àlbum Due Come Noike del 2012, La Gata i Un Cello in una Estancia. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Più là tutto è cambiato, non abito più là, ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.

dream, a little dream. And of course, Prince Charming is the theme that he for me. And though I realize as well as you, it is seldom that a dream comes true to me. It's clear that he'll appear. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. it's a Stanley Cup and you're wearing a knotted gown. So slide over here and let's snuggle up. I light up the candles and fill your cup. You got me standing at attention now when you're wearing that knotted gown. I've been waiting so long for this, I can barely control myself. A little loving's what I missed. I can't think of nothing else. Such a nighty gown. So tight, and all the way around. You know what I'm saying? You know what I'm saying? When you're wearing that nighty gown. Butter and cream is what your skin feels like. Ooh. As I'm rubbing your shoulders left to right. I always want to stay the rest of the night when you're wearing that nightgown. Let's open the door and baby get some air. The neighbors might see, but I don't care. I know if I was them that I would stare when you're wearing that nightgown. Well, I've been waiting so long for this, I can barely control myself. A little loving's what I missed. I can't think of nothing else. Such a nighty gown. So tight, and all the way around. You know what I'm saying? You know what I'm saying? When you're wearing that nighty gown. Yeah, baby. Gown. Tight, and all the way around. You know what I'm saying? You know what I'm saying? When you're wearing that knotted gown. Your night. Així estàvem amb la música de Red Norwood, T42 i de Johnny Ferreira, Nightly Gown. I seguirem amb Gino Paoli, Danilo Rea, Finguera Edité i La Falena, des de l'àlbum recomanat de la setmana. Non so cosa m'è preso questa sera. Ti parlo come fossi ancora qui. Mi volto e sei seduta vicino alla finestra. Sorridi come tanto tempo fa. È vero, non si può fermare il tempo, ma puoi fermare i sogni intorno a te. E dentro ai miei pensieri i sogni sono veri, e quelli il tempo non li cambierà. Le storie che non vivi rimangono nell'aria, come farfalle al sole ubriache di luce, e tornano a volare appena tu le tocchi. Ti tornano nelle mani, ritornano negli occhi. L'amore non è mai quello che sembra, è spesso quel che sembra ma non è. Ma se ti parlo ancora adesso come allora, diventa vero fingere di te. storie che non vivi rimangono nell'aria, come farfalle al sole, ubriache di luce, e tornano a volare appena tu le tocchi, ti tornano nelle mani, ritornano negli occhi. L'amore non è mai quello che sembra, è spesso quel che sembra ma non è. Ma se ti parlo ancora, adesso come allora, diventa vero fingere di te. La luce era per lei la grande falena, e lui l'adora sempre in fondo alla scena. Lui il piccolo sardo lontano dalle stelle, con un resto di mare ancora sulla pelle. Per lei la grande artista, se artista vuol dire ballare bianca e nuda per far divertire. Regina di sogni, di voglie, di botte, in quel vicolo buio, in fondo alla notte. Poi una storia inutile, di rabbia e gelosia, di nessuno sarai, se non sarai più mia. Una nottata di coltello ed è finita, e l'han portata via, senza la vita. E lui è partito in fretta per il cielo, e va cercando nei night club del paradiso, sui grandi manifesti che portano il suo viso, la sua regina delle notti bianche. È partito in fretta per il cielo e va cercando nei nightclub del paradiso, sui grandi manifesti che portano il suo viso, la sua regina delle notti bianche, la sua falena dalle ali stanche. La luce era per lei la grande falena.

Thank you.